alla nostra situazione di civilizzati digitali, o perlomeno di persone in procinto di civilizzarsi digitalmente, vorrei ricordarvi alcune riflessioni che abbiamo fatto in passato legato all'uso del selfie. Il selfie sarebbe l'autoscatto, è una delle parole più usate e più frequentate da quando tutti abbiamo un telefono cellulare con una telecamera orientata anche verso di noi, quindi non soltanto per far foto, ma anche per farci delle foto. E questo improvvisamente è diventata la firma digitale delle nostre transumanze, è diventato il suggello dei nostri momenti epici, è diventato il segnalatore dei nostri stati d'animo che vogliamo in maniera non sempre così esplicita comunicare a qualcuno. E quando ci facciamo un selfie, speriamo sempre che qualcuno lo guardi e capisca esattamente quello che noi volevamo dire. Si scattavano selfie sui binari per mettersi in mostra con i loro scatti agli occhi degli amici, ma si mettevano in pericolo una volta in più in una sorta di gioco che sempre più spesso può rivelarsi mortale. Quattro amiche, tutte tredicenni, sono state viste da alcuni passanti mentre scavalcavano pericolosamente la recinzione della ferrovia a Legnano. Solo pochi giorni fa è morto un loro coetaneo in Calabria per la stessa deprecabile moda di farsi selfie il più vicino possibile ai treni in corsa. Il daredevil selfie, il selfie temerario, impazza sui social, un'abitudine che deve essere assolutamente fermata. Che selfie vi fate? Come vi regolate con i vostri figli? Quali sono i momenti che volete condividere? È importante saperlo, perché da quello che si condivide molte volte è chiaro quello che noi vogliamo essere, non quello che siamo, assolutamente no, ma quello che noi vorremmo essere. Quindi osservate per un attimo come vi siete raccontati e ricorderete a voi stessi quello che voi ambite ad essere. Ora, il selfie temerario accennato in questo servizio, chiaro, in esasperazione, una sorta di roulette russa, farsi la foto mentre arriva il treno, farsi la foto nel momento temerario, nel momento del rischio, una deviazione dell'intrepidezza giovanile che molte volte ha cercato dei luoghi di esasperazione. In questo caso basta avere un telefono in mano e un istante dopo vedere gli amici che ci dicono: oh, vedi quanto sei stato figo. Ma esiste una forma involontaria, può accadere e coinvolgere anche un tranquillo villeggiante, una matura coppia in vacanza. È il selfie mortale fatto nel luogo storico. Un signore è morto cadendo dalle scale di un famoso monumento indiano, perché si faceva un selfie, si vedesse tutta la cupola del monumento, è caduto e si è fatto male. Esistono luoghi panoramici in tutto il mondo in cui c'è proprio il cartello, il divieto, quindi è prescritto che non si possono fare i selfie. Perché? Perché un bellissimo tramonto su una scogliera in riva al mare può diventare un luogo in cui ci si uccide, e spesso è successo. Un muro di una abbazia a picco su una montagna può essere un luogo deleterio e pericoloso. Accade sempre più spesso che persone, per sporgersi, per fare dei selfie, si fanno comunque, rischiano moltissimo se non muoiono. Proprio pochi giorni fa una ragazza è caduta nel Tevere mentre si faceva un selfie. La polizia l'ha soccorsa, si è salvata, ma questa voleva farsi un selfie dal ponte Sublicio, era salita sul parapetto del ponte, un gesto temerario, sconsiderato, magari veniva anche una bella foto, è cascata di sotto e l'è andata bene, e che molti ci hanno lasciato le penne. Ecco, sembra impossibile, tutti gli indicatori, tutti quelli che hanno previsto il futuro, nessuno aveva mai immaginato che comunque dalla proiezione digitale dell'umanità attraverso la rete sarebbe venuto fuori proprio un pericolo reale, concreto. Si rischia la vita oggi con un telefono in mano molto di più di quanto la si rischiava facendo una telefonata da casa. Una volta al mastro ci si poteva strozzare andandosi il filo al collo, non so. Cristina, buongiorno. Sì, sono io. Allora, adesso mi si dirà che sono una vecchia perché ho 72 anni, però vivo... Vabbè, non è proprio di primo pelo, ma c'è di peggio, figuriamoci. Assolutamente sì. Però io adesso mi immagino che magari un mio parente, un mio figlio fosse morto in quel luogo e vedo due turisti che si fanno un selfie. Ma io piglio un bastone e li corro dietro. C'è un limite a tutto, Lei ragioni, un attimo insieme ragioniamo, Cristina. Ho capito, è vero, è giusto, ma non è che si può mettere delle guardie di vigilanza in luoghi dove è accaduto qualcosa perché la gente non si fotografi? È una questione, no. è una certificazione di quello che è lo spessore dell'umanità. Ci sono persone con più coscienza e sono persone più cialtrone. Il più cialtrone vede un incidente stradale, si ferma e si fa la foto davanti al morto. Non è che eliminerà mai i cialtroni dall'umanità, questo è impossibile. Allora, Nicoletti, lei registra la realtà, però mi deve essere concesso di dare anche un giudizio assolutamente su questa realtà. E io dico che siamo a un livello veramente, veramente bassissimo. Se poi penso che queste persone vanno pure a votare, mi vengono i brividi. Poi posso dire una cosa? Mi vengono i brividi. Noi molte volte siamo... Ma guardi, è un discutere amichevolmente, non è che voglio tenere posizioni. La mia posizione è quella che ogni secondo mi piacerebbe cambiare idea, quindi si figuri se mi attacco ai miei punti di vista. Lei immagini, ci sono delle foto storiche in cui i carabinieri del Regio Esercito si fanno fotografare con un brigante legato a una spalla, a una scala, ucciso e scannato, in cui eroici soldati italiani nelle colonie si fanno fotografare con delle teste mozzate in mano di ribelli, non so se eritrei, sì, adesso non ricordo, ne dico qualcuno così soltanto, ma ci sono mille episodi in cui vincitori tronfi si fanno foto accanto al cadavere del vinto, in cui patiboli, forche, luoghi di tortura, di abiezione umana sono fotografati con le persone che li gestiscono assieme. L'umanità ha sempre avuto, da quando c'è la possibilità di rappresentarsi a tempo reale, questo desiderio di mostrarsi in qualcosa in quel momento ritengono storicamente di valore, storicamente importante. Oggi lo fa ognuno di noi, non c'è più il fotografo che gira e va al seguito di un esercito e fa le foto ai vincitori o anche ai vinti umiliati. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di farlo individualmente, questa è la differenza. Non è che l'umanità è degenerata, l'umanità ha degli strumenti di rilevazione più efficienti di quelle che sono le proprie abiezioni, ecco. Non è d'accordo? Sì, ho visto persone, per esempio durante un incidente stradale, che prima di chiamare l'ambulanza si fanno un selfie. Nicoletti, basta, cioè c'è un limite. Invece no, non c'è un limite, si andrà ancora avanti, mi creda, si andrà ancora avanti. Non potrà mai venire qualcuno a dire no, basta, d'ora in poi non si fa più questo, se no si creano quelle regole ridicole come mettere la conchiglia alle statue del Foro Italico, capito? Che c'è un limite, non si può vedere il pisello degli atleti che hanno messo lì. Questo è successo in Italia degli anni 60. Oggi ci ridiamo, domani rideremo di queste limitazioni. Io prendo atto e apprezzo il suo punto di vista, però secondo me osservo e vedo che secondo me non è che ci sarà un limite, si andrà ancora avanti. Antonio, buongiorno. Lei ha ragione, il limite non c'è, perché i libri di storia sono pieni di fotografie del Vietnam, della Seconda Guerra Mondiale. Ne potrei fare migliaia di esempi. Il fatto che adesso dall'analogico al digitale è più veloce, quindi arriva subito. Soprattutto è individuale, chiunque, quindi tutti lo fanno. Ma io... Poi ognuno è individuale, se io mi voglio fare la foto vicino al morto dipende dalla mia persona, ma io non ho chiamato per questo. Io sono appartenente alle forze dell'ordine, quindi io che ne vedo di tutte le maniere le foto. Assolutamente. Però io ero a mare e fotografavo i miei figli, una cosa normale. Si sono avvicinate delle persone e mi hanno detto, scusi, ma quelli sono i suoi figli? Dice, sì, sì. Ma giustamente dice, scusa, perché me lo chiede? Perché volevano sapere, perché forse hanno scambiato per qualche altra persona. Sì, ma purtroppo accade che siano maniaci che vanno a fotografare bambini. Io là mi sono sentito, ma perché giustamente io da padre, 3 figli, una persona, io sono appuntato ai carabinieri. Succede spesso. Uno entra, ma eppure, però... Le fotografie, ora ritornando indietro il discorso, i libri di storia sono pieni, come la bomba di Hiroshima e Nagasaki, nei libri di storia ci sono le foto delle persone che sono state colpite. Anche il premio Pulitzer viene dato alle fotografie della bambina del Vietnam che è stata ucciso. Guarda il paradosso, quella foto che lei ha citato, che ha vinto un premio, è stata censurata dall'algoritmo di Facebook, perché c'è una bambina nuda, cioè no, bambina nuda non può apparire, perché poi la tecnologia ci dà gli strumenti inarrivabili per mostrare la nostra nefandezza, ma allo stesso tempo diventa un castigatore elettronico senza un minimo di capacità di selezionare di quelle che in realtà sono le nefandezze che è giusto che si vedano perché fanno parte della storia. Ora, la nostra storia non sarebbe tale, non avremmo avuto ammaestramento della storia se non avessimo visto foto di nefandezze, se non avessimo davanti le foto di quelli che furono i lager, i campi di concentramento, gli stermini, via dicendo, non ci sarebbe, e tuttora ancora viene banalizzato questo concetto, una coscienza generale di riprovazione, di disprezzo rispetto a quelle forme di disumanità. È che purtroppo il self individuale oggi racconta poco. La storia di tutti non sarà mai la storia in assoluto. Non credo che l'insieme di tante visioni individuali diano una visione oggettiva della realtà. Creano soltanto confusione, ma la confusione fa parte dell'epoca in cui stiamo vivendo. Dobbiamo viverla, cavalcarla e saperci nuotare sopravvivendo, se possibile. A tra un istante. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Avrei voglia di un giallo, anzi, di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 alle 22, la domenica alle 16.15 alle 20.45, dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Un autoscatto con il telefonino che può trasformarsi in tragico e stupido gesto fatale, spezzando una vita. In Messico, a Chihuahua, Nizia Mendoza Corral, 18 anni, studentessa in legge, e Clarissa Mochenko Miranda, 17enne all'ultimo anno di liceo, sono morte senza neanche accorgersene, con il sorriso sulle labbra, scattando un selfie su una pista d'atterraggio, uccise dall'ala di un aereo che le ha colpita alla testa mentre toccava terra. Le due amiche erano salite sul retro di un furgone, nonostante molte persone le avessero avvisate del pericolo. In mezzo al frastuono che le circondava sulla pista, non si sono accorte del velivolo leggero in fase di atterraggio, un colpo d'ala che ha portato via i loro sogni. In Oregon, Aurora Genai Scheffel, 14 anni, stava per scattarsi un selfie con alcuni amici in gita al Getty Park South Beach, quando una tavola del pontile su cui si trovavano si è rotta ed è andata a fondo trascinandola in acqua. Gli amici sono riusciti a riemergere, ma lei è rimasta incastrata. Alcuni episodi in cui il selfie diventa l'ultimo atto che compie un essere umano. Non è da tutti immortalarsi. Cosa vuol dire immortalare? Fermarsi un attimo e sfidare la morte con un'immagine che ci sopravviverà, sì, ma quando l'immagine che ci sopravvive è proprio quella del nostro ultimo istante, forse una riflessione da fare. Ma c'è un'infinità di casi di cronaca, ormai sono spesso occupato, ci ho scritto, me ne potrei elencare tantissimi, nei parchi con gli animali feroci liberi, nei luoghi panoramici, affogati, decapitata da un aereo come è accaduto a questa ragazza. Insomma, farsi un selfie in un luogo che rappresenta in sé una sfida comunque da condividere con gli altri può essere deleterio, può essere finale, ma sono due punti, i punti di attenzione in questa trasmissione. Il selfie come momento epico da parte di categorie che in realtà dovrebbero mantenere una loro riservatezza, su questo sono d'accordo, forze di polizia, medici, operatori nella sanità, persone comunque hanno a fare con esseri inermi che non possono difendere il loro diritto a essere rappresentati, quelli sì, meritano una regolamentazione. Selfie, luoghi in cui accade qualcosa di tragico, nei campi di concentramento, capita spesso che vanno i turisti e si fanno il selfie davanti ai forni, davanti ai luoghi di sofferenza e di sterminio. Anche quello è brutto, ma uno va in un posto del genere, vuole portarsi un ricordo che è stato in un posto del genere. È una materia ancora da discutere, da ridefinire. Come si ridefinisce il diritto nel campo digitale, va ridefinita anche la possibilità di unire la propria immagine a un'immagine preesistente che noi attraversiamo. Questo attraversamento, noi abbiamo diritto di certificarlo in qualche maniera e di renderlo pubblico? È una domanda che per me ancora non ha risposta. Sentiamo un po' aiutarmi Mauro Manca. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno a lei. lei e a tutti gli ascoltatori. No, dottoressa, visto che ci vogliamo dare del lei, è una psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Abbiamo sentita parlare di autolesionismo, un fenomeno di cui si parla pochissimo. Siccome Mauro Manca ha scritto un libro, Generazione Hashtag, gli adolescenti disconnessi, è il suo libro precedente rispetto a quest'ultimo sull'autolesionismo, vorrei capire dal tuo punto di vista se noti le differenze generazionali in questa tendenza nell'immortalarsi in momenti della propria esistenza che vanno condivisi. Beh, sicuramente sì, ci sono delle differenze generazionali, però poi sotto alcuni, solo alcuni punti di vista. La ricerca di questi killer selfie, che i ragazzi chiamano KILFI, è tipica giovanile e adolescenziale, che è frutto di una voglia di viralità, cioè che quella foto sia solo esclusivamente diventi virale all'interno dei social network e loro diventino popolare, ma fa parte della loro età, fa parte di un'età in cui ci si deve identificare attraverso appunto le relazioni sociali. Però scusami, Mara, noi abbiamo generazioni che si sono commosse su altri miti generazionali, la gioventù bruciata, i ragazzi che fanno la corsa contro il precipizio con le automobili, chi si ferma prima, cioè abbiamo sempre avuto delle gioventù bruciate che amavano bruciare le loro giovinezze in maniera cruenta. Questo è verissimo. Oggi c'è solo il discorso della ricerca, non solo del limite di se stessi da questo punto di vista, ma proprio intenzionale del diventare virali e del diventare famosi e popolari attraverso i social network. Questo però è dovuto anche all'era in cui viviamo, cioè sono fenomeni culture bound legati appunto alla nostra cultura, all'uso spasmodico del cellulare, ma la ricerca del limite e contraddistingue da sempre le generazioni. Qui parliamo, quello che è un po' tipico di questa generazione, che in un certo senso se le vanno a cercare per esempio con queste challenge, queste sfide social che fanno, perché poi ci sono anche i selfie per esempio in cui si riprendono, in cui vomitano dopo essersi ubriacati e sono arrivati al coma etilico, e devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco, la fantasia oggi è nel chi riesce a inventarsi una moda, che una qualcosa che poi diventi una moda, cioè la voglia di fare, di apparire, non è solo appunto di approvazione dagli amici, ma di lanciare anche queste mode, di diventare il più famoso nel web. E questo ovviamente gli fa spingere un pochino oltre. Però questo, sai, è il meccanismo che abbiamo oggi della condivisione totale di ogni nostro in potenza, dove possiamo arrivare a qualunque abitante della terra che abbia uno smartphone, una connessione in rete. È abbastanza è ardito, ma anche allettante come sfida. Non ha mai avuto l'umanità questa possibilità in potenza di essere visto da qualunque essere della terra che abbia un telefono in mano. Mario da Chieti, buongiorno. Salve, buongiorno. Io sono un fotografo professionista, mi occupo di fotogiornalismo. E lei ha appena centrato il punto. Adesso buona parte del lavoro che noi facciamo è realizzato con il cellulare, e perché non ha più la qualità non è più dirimente in questo lavoro. È una cosa molto triste a dirla, però è molto triste, è un dato di fatto, giustamente. È la realtà, è così. Conta avere l'immagine. Cioè, allora, nel mio mestiere non è che prima le cose andavano diversamente. Sì, ma prima erano in pochi che andavano in certi posti dove accadeva qualcosa e raccontavano quello che accadeva, o avevano una grande colpo di fortuna che hanno la macchina fotografica e fotografavano. Oggi tutto il mondo ha una macchina fotografica, quindi sarà sempre qualcuno dove accade qualcosa che può fotografarlo. Tenga presente che l'agenzia più importante, o per meglio dire quella più prestigiosa, che è Magnum, circa 3 anni fa, se non ricordo male, ha preso un fotografo medio orientale, non mi ricordo se siriano o iraniano, che si occupa di fotografie di guerra. Questo mio collega scatta solo ed esclusivamente con iPhone, solo ed esclusivamente con cellulare, e lo fa in maniera eccelsa. È una sua ricerca stilistica, dice, al minimo della tecnologia do il massimo del risultato, immagino. Prima che iniziasse la trasmissione stavo sentendo sul canale YouTube di un negozio di Milano che è frequentato dai fotografi più importanti italiani e internazionali, un'intervista a un mio collega che alla domanda che cos'è per te la fotografia, lui ha risposto tirando in ballo proprio il cellulare, cioè lui ha detto con la macchina fotografica il fotografo si annulla, si nasconde, cioè antepone un oggetto fra se stesso e ciò che sta fotografando. Con il cellulare invece è diverso, con il cellulare è l'esatto contrario, è il fotografo che è chi fotografa, che è protagonista di ciò che sta fotografando. È chiaro, noi ricerchiamo sempre l'interfaccia più diretta, anche il pittore alla fine non vorrebbe più avere il pennello in mano, vorrebbe l'opera d'arte uscire dalle sue dita, anche il musicista vorrebbe sentire le armonie, le sinfonie senza nemmeno avere l'orchestra. È chiaro che il punto d'arrivo sarebbe che abbiamo la super vista l'obiettivo infilato dentro la nostra cornea e ci fotografiamo col nostro cervello. Mauro Manca, voglio chiudere con te. Allora, sicuramente ciò che viene ricercata, io stavo riflettendo anche per esempio sull'uso che fanno i giornali che chiedono per esempio alle persone di inviargli le foto sul posto, i video sul posto, c'è proprio una ricerca perché ha un valore, dal punto di vista di cronaca ha un valore, delle cose che non avresti almeno. Esatto, è quello, perché le persone quando vedono la foto fatta anche da uno di loro è la normalità, lo sentono più vicino, viene riconosciuto, anche purtroppo questo sta portando appunto a perdere un po' il valore della foto di per sé. Quello che è importante, cioè, che ricordi foto, la fissazione, cioè la testimonianza e la certificazione c'è sempre stata e ci sarà sempre, ma dal ritratto fino ai selfie, e questa è la normalità anche nelle condizioni. La patologia è nella mercificazione che si fa di tutto questo, perché il limite, si parlava del limite, il limite non c'è, perché il limite è soggettivo. Nel momento in cui il limite è soggettivo dipende dall'educazione personale, dai valori e da quant'altro, e dall'uso che se ne fa. Per certo, cui i ragazzi che mandano foto intime dei loro compagni e delle loro compagne che hanno rubato, estorto, sgraffignato, approfittando magari di momenti di condivisione, è un atto deletereo e loro probabilmente nemmeno hanno la consapevolezza di questo. No, agiscono nella completa incoscienza, ma sono anche i figli di genitori che fanno altrettanto molte volte e sono loro stessi che non si rendono conto di cosa espongono di sé quando fanno foto. L'ultimo particolare mi ha colpito: un drone americano sorvola l'Afghanistan per fare foto di guerra che nessuno farebbe, e cosa fotografa? Due pastori afghani che tranquillamente, affiancati uno vicino all'altro, si ingroppavano due pecore. Grande reportage, grande squarcio di vita. Alla prossima.